comunque c'è propagazione, senza ombra di dubbio c'è propagazione. Avanti se c'è qualcuno che deve entrare, oppure Mattalino le prende più. Attenzione alla frequenza, l'isola della Sardegna fa chiamate, si sintonizza l'ascolto, brecco brecco. Adelante, qui a Sud Spagna, Malaga, cambio. Adelante, mio hermano de Malaga, te escucho mucho bien. Ok, aquí la estación Benito, le cierra Alfredo, de aquí de las Mijas, Málaga, compañero, también te escucho muy bien. Radio. La propagazione viene ormai, se ne sta andando. Attento compagno, occupi la Sardegna, fa chiamata, brecco. Ehi, sono ritornato. Italia, Italia, qui, chiama Italia, avanti. Adesso è corretta la ricezione, ciao, benvenuto. Avanti mio hermano. È sparita anche la propagazione. Ciao comunque. Avanti, Marco. Ciao, già. Già, vai bene, vai bene. Ma allora non è da me solo. È vero, la propagazione è come se sparisse tutta il colpo e poi ricompare. E ora c'è l'antenna che piace. Non va che qua, ma. Ma io ti ho detto, ma c'è una cosa che mi scende il posto da lì, a uno, poi a te. Puoi dire, diciamo, forse le condizioni atmosferiche sono, dai, vabbè, mi ha preso un colpo. Cazzarola, il capo fa miracoli, mi state arrivando a bomba qua. Sempre 8 watt però, 8 watt reali. Va bene, è meglio così, dai, pensa se ne metto 50 di watt. Minomi, attento mio hermano, da Vasco Sciara, l'isola della Sardegna, adelante per un comprendito. Gamba, ho segnalito per me, mio hermano, ho segnalito. E voi se ne andate, avanti, altro provaci tu. Attenzione, attenzione, copiate Italia, brecco, Italia, operatore Antonio, avanti. Mattalino ancora c'è, Mattalì, non c'è più Mattalino. Oh, non lo so. Ma ora, sono 10 metri, ci sentiamo, ciao. Sei a, ciao. Non è stabile, no? Non è stabile, il segnale va e viene, è troppo veloce l'escursione, dai. Cavagano, infatti. Non è lunga come propagazione, ma come faccio la Brescia per dire? Bergamo. Vabbè, vicini sono, Bergamo e Brescia sono qui. Sì, è molto corta, proprio. Non ti dà nemmeno lo tempo, diciamo, che già spariscono. Ma sta salendo la propagazione, adesso come ci sentono a parlare e cominciano a entrare. Marco in accordo, là va. Scusate il telefono, oggi mi sta tormentando. Lascia le donne. Chiamata per Natalino Alfa 1, ci sei? Sta la facendo merenda, boh. Non penso che ne faccia Natalino merenda, una mela si ha mangiato poco fa, ha detto, ma non penso che ne faccia merenda. Merenda parlo di a cena, che stavo anticipando un po'. Qual è la sta faccenda? C'è praticamente il rumore di fondo della propagazione che varia da Santiago 3 a 5. Ma questa zona è tutto così, dai. Faccio un salto veloce sul 555 per vedere com'è la situazione. Sono tornato, ci voleva, eh? C'è un po' di movimento, eh. Anche sul 45, anche lì c'è un po' il careggio da burotto. Sì, me lo posso immaginare. Io mi stavo facendo il caffè. Ho sentito la caffettina da qua, Natalì. Già lo so, l'ho sentita. Natalì, poi, ma domani ci vai al corso? E te credo che ci vado. Ma Franco passa a prenderti. Non lo so, non gliel'ho chiesto, non siamo sentiti. Perché ti deve dare quel calvetto domani, capito? Poi magari sabato passo, sabato mattina passo a prendermelo io. Andrà bene, Meda. Gappa, grazie, continuate che sono in 10 metri e c'è un sacco di propagazione. Allora adesso vedo se riesco a batterti. Gappa, io sono entusiasta, non c'è problema, c'è un male di propagazione. Eh, purtroppo non ci posso venire lì. Sì, c'è un brasiliano, ha fatto Brasile, Afghanistan, Stati Uniti, c'è il mondo. Ma arrivano fortissimi. Poi dico, vabbè, banda laterale, non c'è problema. Me lo posso immaginare, no, io ero qua, quindi tra l'altro è spento. E poi ce n'è un po' in verticale, stanno trasmettendo, no, con le direttive, quindi arrivano fortissimi, anche io sono in verticale. Arrivano fortissimi, ci sentiamo proprio così, tata. Vabbè, dai, continuate, scusate l'interruzione. Se non si dovesse ricordare, ricordaglielo tu, Natali, capito? Che devo collegare l'820H con quel carretto, mi serve. Stamattina lo stesso era fuori, non me l'ha potuto dare. Ecco, questo lo va a te domani quando andate al corso, capito? Sì, vabbè, già glielo ricordo io, poi ricordo anche delle viti io che tu io qua e seguono a lui. E allora ricordaglielo, ricordati il cavetto mio, capito? Se lo senti per telefono, io ricordati quando viene a prendermi di portare il cavetto di Claudio. Va bene, vai, che sollevo il volume dell'altra radio. Ci sentiamo ragazzi, buon divertimento, bye bye, vai Lubrefetta. Ehi, buon ascolto, dai, da altre parti. Eravamo tipo quattro amici al bar, c'era Marco, Gianni, Natalino, io, non so dove sono andati a finire. Marco, ci sei? Io non ascolto Gianni, ricordato, non ascolto, parlo in 10 minuti. Vabbè, prendi il lapsus, dai, prendilo come viene. Va bene, ciao. Anda bene. Marco Condor, stazione a parte alta di Sassari, ci sei, cambio. Nuda Freccia, doppio? E io, qua sogno. Proviamo a fare una chiamata a vedere se risponde qualcuno da fuori, dai. Attenzione, canale 10, se ascoltate l'isola della Sardegna, la città di Sassari, avanti. Adelante Sardegna, adelante Sardegna, Italia, chi la fuga spalla che se vuoi levando coppia, cambi. Della provincia di Catania, isola Sarda, buona sorte. Attenzione Cartania, l'isola Sarda ti ascolta, avanti, buonasera, è la stazione W1 della città di Sassari. Gappa, te lo saluteremo, dai, commenta, lo salutiamo, almeno che stia ascoltando, è tra lui. Gappa, avanti di nuovo. Ma che cazzo, dai, non ti fare quello caldo, che tu non vince tutto e va tra e facciamo le mani. Antonio sei vero? Gappa, Antonio, dai, ti saluto, non ci disturbi qua, ci piace anche parlare con gli altri, dai, non c'è problema. Avanti di nuovo, se vuoi puoi passare per gli altri amici. Ciao Salvatore, ciao, ben sentito, avanti. Mi accodo anche i saluti Gianni da questa parte, salutoni alla Trinacria, dai. Ciao Salvatore, ben sentito, grazie ai saluti. Ciao Salvatore, ci ascolti qua, Natalino Alfa 1 da Sassari. Tutti qua, signore, purtroppo la rete di tutti e non vorrei osservare il viaggio, portate tutti. Cappa Salvatore, dai, buona serata, ci sentiamo, grazie per il questione. Ciao, un abbraccio, avanti Natta. Come sto uscendo con questo qua? Bene Natta. Adesso parlo con questo, e questo è più leggerino, e poi ho il macchinino più gestibile, diciamo. Un pochino da salotto è questa, Natali, dai. Un pochino? Questa dico che è un pochino da salotto. Se vuoi aumento, mi guarda. Guarda com'è adesso. Adesso ti sta sovrammodando la televisione. No, questo è più da salotto, va bene così, dai. Di lusso. È tutto grasso per cola, come si dice. Cappa. Questa va bene. Va bene. Sì, anche Salvatore da Catania proprio. A se fare, proprio non c'è un minimo di costanza, dai. E la propagazione ancora non è stabile, sale e scende, capito? Se riesco a ascoltarlo io con la boomera, via! Tu vuol dire che la propagazione è forte? Ma la boomerang se è puntata bene va bene. È direttiva, Ma non proprio. Eia, cosa no? Dove è puntato il radiale imbatte di più. Il radiale in questo momento è posizionato verso sud. Cara cara. Oh signor, cercami che è inquieto, verso boh. Stavo da sentito. Puntato verso la calloria, la parte di giù. Comunque io ce l'ho avuta, ma è rimasta un po' nel cuore quell'antenna. Mi dovevo tagliare le mani invece di venderla. Qualcuno a me. La mettevo come seconda. Vabbè, pazienza. Già, la buscherò qualcuna, va. Gioia. Cavolo, quanto andava bene il cavolo. Ma bene però, ho fatto male a darla, cavolo. Va bene, va bene. Gianni, ci sei ancora? Sì, ci sono, ma sono un po' bloccato, è la verità. Non ho riposato oggi, sono andato presto, quindi sono un po' così. Mi sta ascoltando, va. E tu cosa avevi messo, che non me lo ricordo? Niente. Positivo. La Super LED. Ah, e anche quella è una grande, con la signora antenna, Sì, è come la Matuba 1, dai. E anche fatta bene. Al pezzo dove che entra nel tubo che tutto è in acciaio. Sì. Una buona antenna. Quanti metri è alta? Te lo ricordi già? 7 metri. Cazzarola. Sì, è grande, è alta. E anche la mia è così, non ti credo sia più bassa, no, di quella. La Mantova 1 mi pare 7 metri e 07, così è già. 7 metri e 10. Con tanto riesa. Con tanto riesa. Più c'è il tubo, più la testa del palazzo. Infatti, sono 7 metri d'antenna le 5 ottavi. Se ti serve qualche tubo per allungarla te lo do io, non c'è problema. La mia no, va bene così, qua. No, lo sai che qua batte troppo vento, il palo non vuole molto alto. Facciamo 7 ottavi subito, 8 metri, le mettiamo un altro elemento, la facciamo 8 metri, così c'hai una 7 ottavi. Non mi interessa, va bene così, se no si vede troppo qui, il palazzo si mette a montare. Il bastardi lì ci tiene al guro. I miei vicini stanno già borbottandomi perché è troppo scandalosa l'antenna. Invece dice che niente non è scandaloso, mettendo i panni in quel vicolo sembra cazzo un accampamento di zingari. Cazzo, guarda, già cominciando a rompere i cazzo di so. Ma te l'hanno detto, Antonio, sono andato a Ceramidà. A Ceramidà. Sono andato a Ceramidà, a me non mi dici nulla. Scandalosa, non c'è un cazzo che rubina la faccia per il palazzo. Scandalosa l'opera, più scandalosa l'altra, già, ma lo so se lo ritengo. Quella è piazzata bene, sta fatta a muro, ha fatto bene il lavoro. Si avviene il bisciato, andi sta, si va. A fondo all'erretta. A fotti di nigla, la capigli. Cazzo, era più scandalosa l'altra, comunque i radiali, questa qui è un pezzo di coso e buh, però sale un bel in alto, loro la vedono molto alta, capisci? Chissà cosa pensano, buh. E chi sa di vicino a te, basta badarsi le gorre, sono più alti dell'antenna. No, appunto. A vero. A me non mi ha mai cagato il cazzo nessuno. La verità è, ditemi chi sicuro di colore qui con la... Non male, mai rompito i cazzoli, di niente. Di niente, ma anche la gente di lì, non mi ha mai rotto le scatole nessuno. Cioè, so che... Ma carità, che mi affisiva. A me Antonio mi hanno detto cose invece, lo sai. Ma cosa? Le antenne, qua, dove sono io. Guarda, ho detto mai ci me la culo, sono a casa mia. Un cinghiale è passato stamattina, mi ha detto che ieri notte si è sbattuto al tubo dell'antenna. Ah, così è. Ebbene, non si butterà. Infatti, raggiunto, se torni a passare ti tiro, così non ti sbatti più. Ah, mi rompe le balle a me. 3.000 metri di terreno, ce l'aspetta, c'è il tempo, lo fanno a long wire, è nata lì. L'attacco alla mappa va ritirato in campagna a 50 metri d'antenna. Ma già ce l'hai la mantellina, già. Io già ce l'ho, andiamo assieme, di notte, così non ci vede nessuno. Comprato il ballo con 9-1 a bicchiere 3 kW, ma farmela già provato, da lì 70 euro di ballo, una cosa pazzesca, ma bello, eh? A bicchiere trasparente con dentro tutta la bobina, il sugar. Attacco quello e poi tiro lo gavo e fa tutte le bande. Come vedete lo tende a long wire. Claudio, tutti i rubini, vedete Marco, srotoliamo la bobina. E infatti l'altro giorno ho preso il cespugliatore, andavo, scendevo, ho fatto tutta la strada fino ad arrivare al palo della cosa, del telefono che c'è giù in fondo. Ma dice, ma se si vende la carriera? Certo che sì. E allora stavo passare un capo da qui e laggiù. Ah, ma lì ce l'hai annettato, ah no. Chiamiamo Marco Scorpio con la mantellina e andiamo a fare il tutto. Ok, oh yeah. Che non ho voglia di stare con quanto appeso, no. Al carbonato, ma sa faccia con la 5 elementi. Nuova, piazzata e tolta. Infatti pure sono indeciso se balla Roberto, se le serve, la usa lui. Infatti io non le piazzo la 5 elementi dei 6 metri. Capito? Perché non le metto più traliccio, metto solo filari, ma posso mettere tutte le filari che voglio. Non ce n'è problema qua. Né qua e nell'anni avevo problemi, assolutamente. Capito? La visa che ha detto cosa, lì a controllarsi i gorri. Che no, una bassa e un'alta, alcuni in linea. Le brisce una ribilla. Allora, albero pure muori diranti, il vicino si muovono. Ma dimmi tu che. Bisogna segnare che va a vedere. Anch'io. Tutti avete aumentato. Io sono con. L'ho provato anche questa in 10 metri, 5-9 più 10 mi hanno dato. Lei fa poco, questo è 140, c'ha più di 100 watt in AM, più di 100 watt. Adesso stanno un 50 di portante e 100 modulati pieni pieni. Ma dico, mi sono aumentati parecchio il segnale a me. Cazzo, a confronto a prima. Ah, quando hai cambiato il cavo? C'è un abisso, c'è. Beh, te l'hai diritto, quando il cavo è grosso c'hai meno dispersione, meno tutto, ma molto bene. Figurati io che ci ho messo i paloni, sia nella Mantova, sia nella V e nelle U, sia nella J-Pol, da tutte le parti. Ci ho messo i paloni, cavo a 6 euro al metro, fate un conto, col centrale. Ma grosso, baro, la calza che la devi tirare con la pinza dietro per mettere il PL, se no col cazzo la vinci. Sono cavi buoni questi, se non hai cavo buono è inutile avere antenne buone, non serve a niente. Stavo dicendo, adesso che ho messo l'antenna su non parla nessuno. Per vedere le differenze non parla nessuno, ovviamente. Arrivata a Puglia. Ehi, Anto, volete parlare assieme a Natalino? Sento Natalino. Vabbè, anche tu hai messo il cavo buono adesso. Tu ci hai messo i palloni, no? Ehi, qua sì. Quello buono il cavo da usare. Tutti quello usano, non esiste più il 213 o cavi. Invece i palloni è superiore anche alla Camille, io ho una 15 metri di Camille, una quindicina di messi palloni, ma c'è un abisso. Ah già, me ne sto accorgendo. Questo è l'RG8, No, quello è un 213.000. No, non è un 213 questo è RG8. Però è buono, cazzo, è buono che è tosto da tagliare. Addirittura, ancora RG8 esiste, boh, non sapevo, pensavo che fosse il 213. No, 213 ne ho io. Io ho la Camille e invece il Paloni, che è come la Camilla però superiore. Vabbè, buono lo stesso comunque. Certo che è buono, è meglio del G58, dell'H100, dell'H150, è quello un buon capo. Stamattina, la forbice qua dell'elettricista ha fatto abbinarmi a tagliarlo. Soprattutto che già taglia questa qua, ma adesso è grosso veramente quel capo. Per tagliare questo o lo tagli col seghetto oppure ci vuole la forbice per portare, quella grossa. Con la forbice normale non taglia questo, manco il centrale taglia, per il centrale ci vuole la tenaglia, la tronchesina, capite? Vabbè, con la cosa ce l'ho fatta con la forbice l'elettricista, ma da un certo punto binami, non è che l'ho tagliato così, no? Andato Mattana, dai. Già da Mattana andò 113 al mare, figurati l'otto che è ancora più gruscio, già va bene. Tu profe, cos'è che ti serve, antenna, cos'è che vuoi? Niente, qua, stavo giusto guardando alcune cose. Stavo guardando alcuni siti, dai. Ma cosa vuoi mettere, la macro lì? No, negativo, troppo grande. Una senza radiali, una 5 ottavi senza radiali, una mezz'onda, boh. Comprati quella che c'è a Franco California, quella che va bene con l'antenna mia. È piccola ma sincera, c'è radiali piccolini come quella che ho io delle V e delle U, da 20 cm. Comprati quella che funziona bene, meglio di quella che hai, e costa una cazzata. Eia, il discorso è che qua girano un sacco di burracci, gabbiani, corvi, piccioni, vedi tutto. Vi siete parlati sopra, dai. Io non so chi c'era sotto, bro. Non so. Chi è? No, ho parlato io. Ho detto che sono molto grossi, cioè. Non sono come tipo quelli di Mantova e cose, quelli sono corti, sono di ghisi grossi, cioè anche se l'animale si posa, non ce la fa perché no, non ce la fa neanche a piegarli perché sono di ghisi robusti. Se lo sto dicendo, ti prendi quella lì ed è superiore a 5 ottavi, ed è superiore a quella che hai, c'ha tre radialini piccolini, capito già, e costa una tronzata. Sì, sì, la conosco, l'ho già vista, è sotto osservazione già da un po' di tempo. Sì, l'ho già vista, la conosco, è che siccome viene marchiata, come sta dicendo Marco, da due o tre aziende diverse, confrontando la lunghezza tra 5 ottavi e la mezz'ora, praticamente la differenza è quasi nulla, tranne che per la comparsa dei piccoli radiali, quindi come stava dicendo Marco hanno compensato la lunghezza allungando la bobina, capito? Perché la fa la Venom, la fa l'Eco Antenne, cioè sono tre o quattro marchi, capito? Che fanno la stessa antenna e poi c'è questa confusione qua riguardo alla lunghezza, perché sia la mezz'onda che la 5 ottavi sono intorno ai 5,8 metri, 5,7 metri, una cosa del genere. La Silvio devi prendere quella che ha Franco California e quella va bene a chi pompa un bene. Quella è la Venom, quella lì devi prendere. Sigman però è. Non lo so, quella che c'ha Franco qua c'ha un segnalone, arriva fortissimo e va molto bene. E cazzo va bene. Poi Gianni lì ha aperto via il produttore, c'è cazzo da una vita, vai. Sì, già è sotto osservazione. È sotto osservazione, vabbè, adesso i prossimi giorni vediamo, dai, come cambia, migliora un po' il tempo, vediamo un po', dai, di fare questo acquisto già preventivato da tempo, così cambia anche il capo, dai. E ci conferma, fallo perché guarda, quella è una signora antenna, veramente, una signora antenna. E così compro le balle natalino di più. Sì, già ci ho la pompa qua, io adesso mi compro le cartucce a pallettoni, così non la sparo a palla e non ti sbaglio, neanche se voglio sbagliarmi. A buttarmi in antenna? E allora? Minchia, cazzo, si è messo il vento qua. E anche qua, classe, si è messo un po' di vento. Ma non è un po'. Purtroppo io sono in alto, però c'è un po' di vento. Confermo, confermo. Si è alzato un venticello stravagante, dai. Un venticello stravagante? Ho abbassato le finestre. Come le ha messe per terra? Le ho accompagnate e le ho chiuse. Ah, le ho accompagnate? Non lo sapevo, ma strada. E ogni tanto sono a svarioni qua, dai. E me ne accorgo anche dagli alberi che sono belli, se la stanno ballando, dai. Io c'ho sportellone, guarda la finestra che sta, che si muove, è tutto chiuso nel corridoio, se c'è corrente nel corridoio del carrello vuol dire che c'è un bel vento. Ai, è beato, tutto a posto. Ai. Tutto a posto, Anto. È a posto, cara. Tutto a posto, sì, tutto ok. Ah, tu sì, come lo domande. Sono 7-5, Daniele, sveglia quel ragazzo. È drumito. Fu Daniele drumito. Io sono venuto. Che se vero, accorti gemmo, bobo. Amici di me, ancora, calma piatta, calma piatta. Oh, yeah. Lo vedremo domani. Vabbè, se cosa vuoi che ti dica, purtroppo è così, non c'è niente da fare. Natalino Cuocuomane, stai studiando? Già stavo studiando stamattina. Mi raccomando, eh. Avremmo. Stavolta ne avvicemmo, Stavolta ne farà un giorno dalla trave, e poi ci andiamo in 10 metri, stata lì, così proviamo la Game Master contro la J-Ball. E non c'è storia, vinci tu. J-Ball. Vabbè, J-Ball era una 7 ottavi contro una 5 ottavi, però già funziona bene anche quella. Ah, io l'ando già a muovere J-Ball. Alla prima. Elo. Only. Ma perché Claudio, l'hai fatta? Cosa? Dico, la J-Ball l'hai smontata. L'avevo smontata quell'altro giorno, mi sono fatto male, l'ho rimpiazzata. Facilissima la piazza. Bravo, la sembri per terra e poi la tiri su, la leggerissima. L'ho messa nel paletto a 1,5 metri da terra, ma cioè, la manta vale quasi 7-0 e la manta va 6 metri alta. 7-0 lo fa. No, perché tra l'altro qualche problema o stavi sperimentando qualcos'altro? No, l'ho tolta perché dove c'era quel lei ho messo l'antenna VHF, la 5 ottavi multibanda, cioè bibanda. Ah, ecco. Questo dettaglio non lo sapevo. Pensavo che fosse sorto qualche problema. No, quella. E prova di lasciarlo già il problema. Costa un pochetto di denaro, però tranquillo che è un'ottima antenna. È aumentata, adesso costa 200 euro più 20 di trasporto, 220 euro. Io l'ho pagata 160. E come me l'ho fatta prendere a Carlo a 160 euro lo stesso. Lo sconto che fanno a me là. Siamo costa 180. Costava 180 più 20, adesso costa 100. No, adesso costa 200 più 20, 220 euro. Un pacco di denaro. Minchia. Sì, la J-Ball che ho io costa 220 euro spedita a me. Voi immaginate che Francesco Di Osio sia l'ascolto. Minchia ragazzi. E vento, vamos. Ush. Tutti e tre potenti, aspetta che controllo full. È inobbio, ma cresce. Non metto la paura. Adesso me ne volano le antenne. E vai, e bocchi di. 9-5 sono adesso. Marco. Chi è? Antonio sono. E Antonio, lo smetterà a LED, sì, 9... e a LED vedo il 9 più lampeggia il più 10, quindi è come se fosse grosso modo 9,5. E andava. Vabbè, propagazione. Si è spenta. Eppure voglio fare una prova. Aspetta. Si è spenta la propagation. Peggio per lì. Cioè, attacco tutto, preparo tutto e sembra la propagazione. Porca paletta. Ditemi se sto saturando. No, guarda, questa parte non... Il vento sta cambiando il tempo e deve essere si è spenta per quello la propagazione. Hey, Claudio, ma la multibanda HF l'hai tenuta la verticale? Claudio? Non c'è più. È andato a controllare Roma. Sono col campo diretto, com'è? Finalmente per fura. C'è la salottina e vi mette la portata in mezzo al giardino. Sì, ve l'ho detto, qua ho visto volare tendoni, finestre che sbattevano. Sono col capo diretto, com'è? 9 qua? Ehi, aumentato. Qua c'è 9 più 20, pieno. Resta così, Anto, fermo, aspetta che controllo con l'altro. Ma lì, Anto, hai un segnalone allucinante. Lo so. Da lì, quando attacchi lineare, lì 9 più 30, come Roberto Quadrato. Prova. Prova. No, no, più lungo. Hola, ciao. Anto, mi stai sparendo. Ma a me lo sta facendo il difetto. No, ma anche qua, è lui, invece il PL ha vittato male. Sì, ma PL che non ha vita, ma quando mai si vende roba del genere? Guarda a vedere, com'è? A me sembra sempre 9,5 qua, provo a fischiare a lungo. Sì, Anto, qua non, più di tanto non va, 9,5. Schmitter ha l'anchetta, però il 3009 è più di bocca buona, sicuramente al 3009 c'è 9,10, però adesso non ce l'ho. Ho aumentato il watt a manetta, adesso? Vai. Un'altra prova. Adesso sei 9,10. KK, come da tecla? Buono, si vede il guadagno comunque. Come ero prima. Claudio, vabbè, forse sta mettendo a posto. Comunque si vede il guadagno, Anto, del segnale. Sì. Aspetta come era prima, scendo di qua. Qua serve un selettore d'antenna, sto attaccando e staccando da una radio all'altra. E mi sa che a 2 non basta, forse meglio metterlo a 4, forse a 6. Vai, profeta. Eia. Vabbè, ti conviene, non è che puoi stare sempre mollando, poi si sputtana tutto. So con i problemi. C'era Gianni in posteggio, boh. Il doppio, non so se si è appisolato. Sicuramente sì. Allora, su Amazon Sigma Venom patapin patapan 42 euro più 33 euro di spesa di spedizione. Quale versione? Lo dicono? La 5 ottavi, quella con i radiolini. Ah, ok, 5 ottavi con radiali, ok, perché te l'ho spiegato, non c'è senza radiali, poi hanno fatto la mezz'ora con i radiali, ma cosa ci offendi? Comunque già, allora se la metti in alto rende, per esempio Franco è molto in alto, cioè credo che sia la fine di Via Grazia dell'Eda, quindi qualsiasi antenna metti poi, soprattutto 5 ottavi, bene o male rende. Ma io ho sentito il commento di uno che diceva la carica, la bobina là dentro, dice, ha trovato un tubo di cartone, dice, con questo filo sottilissimo avvolto la bobina. Poi bisogna vedere cosa vuol dire sottilissimo. Quando sei in alto, come si diceva un tempo, la faccia è bicarbonato di sodio. chissà cosa, vabbè, sta accumulato, cazzo, però 33 euro di spedizione, da dove me la stai mandando? Dalla Mongolia. Allora, l'Inghilterra come uscita dall'Europa ha alzato a livello stratosferico le spese di spedizione, eccessive anche, perché nessun paese, per quanto fuori dall'Europa, ma confinante, attaccato, ti fa fare quei prezzi. Secondo me le gonfiano per farci lo sgobbo, magari sono 15 euro le spese reali di spedizione e loro ci fanno lo sgobbo, capito? i negativi ce l'ho, e Sugar, la radio è una cosa impressionante, 100 watt di portante e 120 modulati, ula, ula, acqua lineare, cosa ride? Bene, va, se non la ricordavo l'hanno tirata così questa radio, minchia, 100 watt di portante e 120 modulati sulla T250. Mamma mia, come sto? E Sugar? Appena satura di radio, mi sembra, acca. Oh, davvero? È strano. No, no, poco poco, però dai, appena appena sì. Perché io tolgo i 100, ne metto 90. Guarda così, con 90. Potrebbe aver migliorato, potrebbe, ma... Gianni? Boh, così a primo acchito non ho sentito grandissime differenze. Sì, manco con 90, eppure sto andando i picchi positivi. Appena mettiamo 80, importante. Così 80 watt di portante? Oh, per me è pulita, anche 90 secondo me. L'importante è non andare al limite proprio estremo. Quanti erano, hai detto, 120 modulati? 100 di portante e 120 modulati. Adesso sono 80 di portante, 110 modulati e 120 modulati. Ulla, ulla. Metti tutto a manetta che sto avvicinando l'orecchia all'apparato, vediamo. Aspetta, se lo devi toccare con la punta della sonografia il frontalino, anche se io unghia non ne ho. Guarda, qui sono 100 watt, 120, quasi 130 modulati. Sì, appena appena in saturazione, è come se ti mangiassi appena appena di radio, ma poca roba. Magari in distanza non si nota. Così invece è minima potenza. La mettiamo com'era. Oh, è una prova, dai. 20 watt, 50, 60 modulati. Quindi mi pare fino a 90 comunque va, dai. Fino a 90 tiene. Ma io per sentirlo ho dovuto avvicinare le orecchie alla radio. Ma bomba. Non mi ricordavo che era così forte questa. Guarda il segnale, siamo in senza parlare, guarda. Da così. Sì, allora radio completamente satura, arriva a 9,15. Praticamente si è passato da 9,5 a metà, tra 9,5 e 9,10 si è passato a 9,15. Però si mangia tutta la radio, eh. Lo so. Ma infatti la tengo sempre così, 20 watt. Però c'è una potenza questa radio, 150 watt da potenza, a portante muta, in AM. Ah, se qualcuno lo sa, quanto tiene il capo grosso di potenza, quanto tiene? 3 kilowatt. Quanto? 3 kilowatt. 3 kilowatt, buono. Picco, banda laterale, vero? Sì, bene, ma 3 kilowatt, cazzo, dai, 3 kilowatt di portante, devi avere gli aspiele quelli in vetro. Cazzo, che non è poco. Gli luci sono così, e messi paloni ne tiene anche di più di 3. Sugreggio mio. No, sono cavi, gli ossi hanno il centrale rigido, il rame grosso, capito, non hanno il cavo filare centrale, capito, quello che comanda, quindi va più che bene. Ho capito, ma 3 kW sono tanti, eh. Io so quelli sia, aspetta che la metto com'era. Ecco qua, 30 watt. Metti, più ce l'è meglio è, almeno ci chiamano dal sud Italia. Sì, abbiamo bisogno di chiamare il sud Italia, già sentono lo stesso, sì. Ma va bene. Stavo dicendo, Cra, chissà se qualcuno li ha messi veramente da quella potenza. I radiatori, volendo, qualcuno non aveva un giocattolino tipo armadio da 8 kW. E non è poco, me. Sì, vabbè, ma sono cose che servono per fare determinate cose. Già ci siamo capiti, noi cosa ci serve. Io massimo che arrivo è 1,5 kW con l'amplificatore, ma proprio tirando la manetta, se no ne uso sempre 500, 600 in banda laterale, sono più che sufficienti per quando c'è il bail-up, hai capito? Per entrare. Certo, non pensare, attaccando 1 kW, cos'è? Cavolo, già un kilowatt sono tanti, sono un bel di watt sono. Posso pensare 2 kW con da so. È una cosa micidiale. Giuseppe Veratre accendeva i neon del palazzo a fianco con il linearone tipo 1000 o 700 1000 watt. Io col TL922 e il 440 da carbonazzi, praticamente i camionisti mi sentivano dentro la galleria come se fossero fuori dalla galleria. No, figurati, sogna geniali. Sì, Anto, così era. Non so se si ionizzasse il gas oppure se con quella potenza praticamente stuzzicavi lo starter e si accendeva il neon. C'è del palazzo a fianco, mi. Vabbè, TL922 dava in AM, dava intorno agli 800-900 watt. 800-900 watt dava, una bestia con l'amplificatore. Avevo imparato Bogusci 4.700.000 lire da Mario Nozzari, minchia papà. Mi assento, a dopo. Sì, a dopo Marco. Catalino, dove stiamo mangiando? Perché stiamo mangiando. Ancora ce l'hai? Il TL922? No, l'avevo venduto. L'ho venduto 2.000 euro mi sembra, o 2.000-2.500 euro, ma tanti anni fa. Tanti anni fa, no, non ne ho più a valvole, non ne uso io a valvole, l'istrumento c'ho l'RM Italy o quello grosso a HF, capito, 0,30, è da 1 kW, però ne uso sempre a minima potenza, intorno ai 500 watt. Sugar. Ho fatto sentire una volta da Carbonazzi, che ti sei cercato, Ghiscio e me. Monello sì. È un modellaccio quello, e poi vabbè l'FL2100 l'ho fatto a Roberto, quello della Iaeso, anche quello è 1 kW, capito? 1 kW che fa 10, 15, 20, 40 e 80, 5 bande HF, quello è HF, però il valvolare l'ho fatto prendere a lui, capito? L'avevo venduto a Valerio, l'ho ritirato io, ho ritirato tutta la roba del Valerio, compreso anche le radio, infatti mi sono ripreso le fette 920 della Iaeso e le ne ha regalato a Roberto. Però ancora non l'ha collegato perché deve montare il traliccio a Roberto, a giorni montiamo le antenne nuove di Roberto col traliccio e tutto. Quello quando schiaccia fa la fuga. Roberto, questo sta girando al mondo. Roberto sta girando il mondo, c'è le antenne che dove ho fatto io, e adesso però dobbiamo montare quelle che ha comprato, quel traliccio che gliel'hanno finito, stava verniciando, stava zingando l'altro giorno, e a giorni montiamo le antenne nuove, e vedrai che si diverte ancora di più, ma quelle che gli ho fatto io sono favolose le antenne. Quelle sono favolose le antenne, sta girando il mondo con quelle. Ma anche la Mantova sposta? No, la Mantova lascia lì dov'è. No, la Mantova rimane lì dov'è e il traliccio va messo dall'altra parte del Torrino, capito? Già pronto, già piazzato tutto. Sta finendo il carrello del traliccio, potrebbe mettere il rotore. Si è comprato anche il rotore, tutto già. Dobbiamo solo trovare un sabato mattina per fare i lavori. Ok. Dai, ti saluto a tutti. E Antonio chiude le trasmissioni. Ciao. Ciao, ciao Antonio, buon rientro a casa, vai, a dopo. Ciao, ciao. Ciao Antonio, lui, avanti e indietro, oggi mi stanno ubriacando. E te bada, te sei fattende? Sì, badantato. Badantato sì, gappa gappa. E via. Quanti cazzo di fatti sono? 10, 20, non lo so. Devo provare con lo strumento esterno a vedere. Riga, chi c'è rimasto qua? Natalino, il profeta, chi altro c'è? Bravo, eccomi. Ehi, già, ti volevo dire, sì, io sempre sono dell'idea, vabbè, questa è una cosa mia, io spenderei sempre quei 10 euro in più, però prenderei un'antenna di cui vedo la bobina, cioè so cosa c'è dentro, lì è coperta, non sai davvero se c'è rame, c'è filo di spagnoletta, sottile, oppure, certo, non tiene molto anche l'assirio, l'assirio mezz'onda, sono 500 watt di picco, non sono antenne per potenze, no? Il punto debole è la bobina, però almeno vedi il diametro del coso, se devi rifare una saldatura la puoi fare perché acquista, capito? Lì è tutto chiuso, non sai cosa c'è dentro. Poi te l'ho detto, la descrizione che ne ha fatto uno, dice che aveva aperto sotto, no? Dove la bobina è imboscata, ha trovato questo tubicino tipo cartone, così ha detto lui, e questo filettino sottile avvolto che faceva da bobina. Cioè 10 euro in meno, ma non lo so, vedi tu. Sì, ho letto anche io certe recensioni, infatti mi lascia un po' così, dai. Ah, poi qualcuno ha detto anche che si trovava le stazionarie piatte su tipo 400, uno ha detto dai 25 ai 29 mega su ne uno, non ti puzza un po' questa cosa? Non può avere una larghezza di banda così ampia. Questa per esempio a 5 ottavi tiene 2 MHz con 2 di stazionarie ed estreme, tipo 26 e 2, 2 di stazionarie, 28 e 2, 2 di stazionarie, centrobanda, quindi 27 e 2 più o meno, anche se un po' più verso qua il centrobanda effettivo. Ma come fa un'antenna a tenerti 3-4 MHz con stazionarie quasi inesistenti? Un conto è la J-Pol che è fatta apposta, un conto è la Game Master che è fatta apposta, cioè è proprio costruita, ma una mezz'onda da 5 ottavi che tengono un fottio di canali, probabilmente questo è tutto a discapito dell'efficienza, capito già? Certo, vabbè. Mi pare un mezzo fauraggio questo, vabbè, come hai detto tu giustamente, non è possibile. Mi hanno chiamato, vabbè, riprendi Claudio. Vaffanculo, ho sbagliato il microfono. Voglio vedere se il segnale è uguale. Aspetta un attimo, voglio vedere una cosa. Dove c'è lo smitter del 140 è preciso, che sto commutando il digitale a vedere 27.075, a vedere se il segnale è uguale con la stessa antenna. Sì, è perfetto lo smitter, è perfetto Gianni, arrivi 9 più 5 in analogico e 9 più 5 arrivi in digitale, quindi è perfetto lo smitter. Quelli lo smitti segna giusto? Alla grande, ma non avevo dubbi, non va nuova sta radio. Non avevo dubbi, no, invece è perfetto. 9 più 5 arrivi con 140 in analogico, 9 più 5 arrivi in digitale, ancora digitale di SP, quindi non può sbagliare, non è LED, è proprio trasmettere digitale. 9 più 5 non lampeggia neanche il 9 più 10, quindi sì, 9 più 5 giusto. Bene meda. Ottimo per la truppa, KK. Io mi allontano due minuti. E anch'io mi allontano, dai. Sono già stanco di stare qua seduto. Se c'è qualcun altro dopo. Ciao. La maratona sto facendo oggi. Chi c'è rimasto? Oh, yeah. sono qua io ancora. E poi mi sembra che Claudio si sia spostato. E quindi sì, già i commenti sono i più disparati. Quello dice che c'è una larghissima banda, uno dice che c'ha stazionarie, l'altro dice che non rende niente, l'altro dice che li rende bene. A chi dare ragione? Boh. Poi ci sono troppe versioni in giro, certe sono rimarcate Equantenne, che non so se abbiano acquistato il marchio Equantenne che ha chiuso anni fa, oppure se è una cosa abusiva per spacciarlo come prodotto italiano, che ne so io, tutto è possibile. Certo, no, le ho lette anch'io quelle cose lì, prima di fare un eventuale acquisto. Boh, pareri un po' discordanti. E poi c'è gente che ha avuto problemi con col tipo mio di antenna, a più persone anche, ha un radiatore, gli ha dato problemi, mi si è interrotta, adesso non mi ricordo a quale livello, Natalino gli ha dato problemi, però lì credo che ci fosse un problema che non è stata impermeabilizzata quanto l'ho impermeabilizzata io nei punti sensibili. Forse anche Antonio Liossi, forse aveva avuto una mezz'onda, però quello dico qua non è, lì si era interrotto quel maledetto, quella falla Turina che va dalla bobina e poi c'è un rivetto dentro, è un punto un po' particolare, c'è un ribattino, come puoi chiamare, che collega la bobina allo stilo centrale. E a seconda di dove si rompe o interrompe è un casino a metterlo a posto, capito? Certo. Gioia. Vabbè, oia, c'ho anche mal di testa, deve essere un po' il caldo la qualcosa. Comunque se guardi anche le recensioni e le opinioni, non dovresti mai comprare niente, perché ti mettono ancora di più in ponte, capito? Certo, certo. No, vabbè, cerchi di fare una media, no? Insomma, poi può capitare l'esemplare è uscito male, succede anche in altri contesti. E quindi può succedere, insomma, bisogna avere quel minimo di fiducia. E niente, però ti ripeto, facciamo che sono più, facciamo tipo 60 per l'assilio e 40 per la Venom, dai. Ehi, la mezz'onda, oh, quanto era? 40 spiccioli mi avevi detto, sì. No, allora, quella serie che ti ho detto io, tipo la GPS 27, la mezz'onda è 58. 58 euro. Sì, sì, sì, io avevo letto tipo la 58-60, la mezz'onda un po' meno, poi ci sono tanti negozi che ce l'hanno. Poi chi ha la spedizione più economica, meno economica, eccetera. Eia. Sì, allora, Sirio GPV 27, mezz'onda, lunghezza 5,7 m, prezzo 53 euro più 8 di spedizione. Eia. Ah, questo avuto, guarda, GPV, perché si chiamava GPS alla mezz'onda, non so perché, vediamo se magari hanno, se la versione più caricata, che ne so, più, la mezz'onda non la puoi accorciare, cioè più di tanto non la accorciano. Ecco, SDT area, vediamo cosa dice. Naturalmente qua ti dà il range di frequenza dove puoi tararla, no, a centro banda, cioè dove la puoi tarare, no, perché uno la compra e comincia a compra tutta la 26 a 29,7, tutto 1 e 1. Eia, sì, c'è quell'ultimo radialino in acciaio che mi sembra che serva per l'accordatura, dai. Ma leggo bene, disponibile, sì. Sirio GPV 47 euro, ah, è il prezzo più basso che abbia trovato, eh. Oh. GPV, qui dice prodotto, barra eco, mamma mia, no. Ma non sarà la Venom eco antenna spacciata per la Sirio, no? Cacchio. Fammi leggere, dai. Poi ho trovato un'altra inserzione, Venom 5 ottavi, pesa metà peso Mantova Turbo, battaglia per 50 euro più 8,50 di spedizione. Sì, piccole variazioni. Allora, 2,100 kg, 5, allora 5 metri, 9,50 dovrebbe essere al Sirio, dovrebbe, ma... Ah, poi qua ti dicono 750 watt di short time, no? Però io, cioè, tipo CW, banda laterale, io non andrei oltre 500 in banda laterale, picco picco. Ma non credo sia quello il problema, già. È caricata, oh, ecco. Poi vedi, la mezz'onda dice larghezza di banda, ROS pari o inferiore a 2, scusate, sì. Allora, ROS pari o inferiore a 2, 1,6 MHz, la 5 ottavi appena appena più larga di banda, e questa mi fa pari o inferiore a 2 di stazionale, sono 2 MHz, almeno nella mia installazione. Veia. Vabbè, boh, prima o poi dovrò scegliere, quindi vediamo un po'. Eppure questo, c'è un codicino, un riferimento, barra eco, ma non è che questa GPV sa per Venom, te la spacciano per Assirio, e no, valle, il prezzo qua mi sembra troppo basso, 47 euro, chi ci zolloffi? Le foto sono dell'Assirio, c'è anche la foto della bobina. Ruia, ognuno fa i suoi camuffi. Io mi devo assentare un paio di minuti, devo preparare una cosa. Ok, dai, ci siamo dopo, ma qui. Ehi, nel caso ritieniti salutato, dai, che sono, c'ho un po' di mal di testa, ora pigliarmi un qualcosa. A dopo, ciao. Ehi,